Quest'anno ricorre il 500° anniversario della morte di Girolamo Savonarola, castigatore dei costumi dissoluti di laici e di chierici, strenuo accusatore delle nefandezze di Papa Alessandro VI, Papa Alessandro VI che di nome faceva Rodrigo e di cognome, ahimè, faceva Borgia, per una piccola trasformazione di un cognome peraltro di origine spagnola. Papa Alessandro VI, che era babbo, nonostante gli oneri del papato, dei compianti Cesare e Lucrezia. Visto che il buon Savonarola se l'era messo contro, alla fin fine mal gliene incolse. I suoi concittadini fiorentini, tra il rigore morale, le privazioni della carne e la deboscia, scelsero la seconda. E gli sgherri del Papa, come noto, ebbero via libera per farlo a pezzetti. Il povero Savonarola, con due altrettanto poveri confratelli fedeli all'idea, venne impiccato e quindi bruciato sulla pubblica piazza prima di essere buttato nell'Arno. La rivista Medioevo oggi pubblicizza il suo nuovo fascicolo in edicola. Il grande cartellone pubblicitario dice: Savonarola, la sua predica brucia ancora. Da un lato è un lapsus imbarazzante, un caso in cui il linguaggio disinvolto del pubblicitario rivela un cinismo che altrimenti sarebbe tenuto ben nascosto. Dall'altro è un curioso caso di metonimia e di sineddo che al contempo, variazioni particolari della metafora. A bruciare è stato lui, ma per una formidabile estensione del fuoco metaforico delle sue parole si vorrebbe far credere che gli scottati siano chi lo ha ascoltato. A 500 anni di distanza, giusto in pieno Medioevo.